rassegna stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti, bentornati alla rassegna stampa europea di Radio 24. Oggi cominciamo da un quotidiano turco, Hürriyet, un po' perché la questione turca è una di quelle sempre sul tavolo delle trattative. Anni fa si era parlato con insistenza di un possibile ingresso della Turchia nell'Unione Europea, la Turchia, questo paese cerniera tra Oriente e Occidente. Poi il governo del presidente Tayyip Erdogan si è progressivamente un po' fondamentalizzato, diciamo così, era sembrato molto più laico all'inizio, e questo ha causato una stagnazione di queste trattative. Adesso questo quotidiano, che è anche un sito in parte in inglese, quindi si riesce a consultarlo, cita questo episodio che potrebbe ulteriormente creare tensioni tra la Turchia e l'Unione Europea, perché il Ministero degli Esteri turco ha convocato l'ambasciatore tedesco ad Ankara per protestare contro una vignetta che è stata pubblicata su un libro di testo in Germania, poi anche da un quotidiano tedesco, l'edizione domenicale della Frankfurter Allgemeine Zeitung. E in questo quotidiano, la vignetta incriminata è una vignetta che ritrae Tayyip Erdogan un po' come un cane che abbaia cattivo. Il senso naturalmente è quello che Erdogan appunto abbaia un po' alla maniera dei fondamentalisti, siccome tra l'altro la Germania è un paese con una fortissima immigrazione da parte della Turchia, anzi 3,2 milioni gli immigrati, e la comunità turca è la più numerosa comunità straniera in Germania. Insomma, le tensioni potrebbero essere non soltanto da parte della Turchia, ma anche dei turchi che vivono in Germania. Cambiamo completamente argomento. Sulle Figaro ho trovato questa notizia interessante, perché, come Le Figaro stesso sottolinea, sarebbe veramente un precedente non solo per la Francia ma per l'Europa, e c'è un braccio di ferro tra i piloti di Air France e la compagnia. Come forse avrete seguito, Air France non è stata l'unica a essere colpita da grandi scioperi negli ultimi tempi, è toccato persino alla Lufthansa, la compagnia di bandiera tedesca. Anche lì i piloti hanno protestato bloccando di fatto il traffico per alcuni giorni. Come tutti sappiamo, quando si sciopera non si viene pagati, è un prezzo che si deve mettere in conto quando si aderisce a uno sciopero. Ebbene, adesso i piloti, sono sostenuti da alcuni sindacati, vogliono comunque avere il pagamento dei giorni in cui non hanno lavorato. Lo sciopero, che è durato 14 giorni, è costato all'Air France una perdita operativa, quindi una perdita netta di 330 milioni, e adesso si aggiungerebbe, se i piloti e i sindacati avranno la meglio, creando tra l'altro un pericoloso precedente, sottolinea Le Figaro, per tutte le compagnie europee o forse anche mondiali. Insomma, i piloti aumenterebbero sicuramente questa perdita già pesante che Air France ha sopportato per questo sciopero. Passiamo a Financial Times, che si è occupato moltissimo di temi europei questa settimana. C'è naturalmente lo scontro tra i governatori della BCE sulla decisione di Mario Draghi di esplicitare l'obiettivo di espansione di bilancio dell'Eurotower, cioè la BCE, che tra l'altro sapete, come hanno spiegato anche alcune trasmissioni di Radio 24, la sede della BCE verrà presto ampliata. Il trasloco in realtà è già iniziato, quindi dovremo parlare di doppia Eurotower, perché appunto da un edificio unico sarà un edificio doppio, un edificio doppio dove i due edifici sono collegati da una passerella abbastanza futuristica. Comunque, secondo Financial Times, a proposito di queste tensioni tra Mario Draghi e gli altri governatori centrali, in realtà in questa famosa cena che c'è stata mercoledì sera, non sono poi state così come paventato all'inizio, tanti gli attacchi al governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che è sì contestato, però si tratta, secondo Financial Times, tutto sommato di un dialogo interno che non porterà a nessuna vera rottura. Poi c'è un'altra intervista un'intervista rilasciata a Financial Times da Yoram Gutgeld, che sapete è un consigliere economico di Palazzo Chigi. Ne ha parlato, anche fatto qualche trafiletto anche qualche quotidiano italiano riportando appunto questa intervista, ma io ve la ripropongo perché è comunque stata interessante. Il titolo, anche scelto da Financial Times, è una bomba atomica sarebbe la massiccia riduzione delle tasse che, se davvero attuata nel nostro paese, naturalmente naturalmente parliamo delle tasse a chi già di tasse ne paga tantissime, e bisognerebbe trovare il modo di farle pagare a chi ne paga troppe poche o magari non ne paga affatto, questa sarebbe una bomba atomica in senso positivo, nel senso che disinnescherebbe talmente tante, per usare un'altra metafora bombastica, possiamo dire così, disinnescherebbe talmente tante risorse che veramente potrebbe essere il vero motore per la ripartenza della nostra economia. La vera scommessa, ha detto infatti Gutkel dal Financial Times, è continuare a fare cose giuste dal punto di vista economico per il governo, e a un certo punto la gente si accorgerà che le cose stanno cambiando e che il futuro è diverso, e quindi appunto avere finalmente, trovare un po' di speranza. Si dice spesso che nel nostro paese in questo momento, tra i giovani e non solo tra i giovani, manca appunto la speranza, manca l'idea che il futuro possa essere migliore. Invece il Times, sia il Times, quindi non Financial Times, che è un quotidiano proprio economico, ma il Times, che è un quotidiano generalista, ha spiegato in un articolo che il governo britannico starebbe progettando di limitare il welfare ai cittadini dell'Unione Europea che decidono di vivere nel Regno Unito. In questo momento, come accade anche in altri paesi, basta essere cittadini dell'Unione Europea, trasferirsi in un altro paese dell'Unione, in questo caso appunto chi del Regno Unito non è, va a vivere nel Regno Unito, e sappiamo quanti italiani hanno scelto per esempio Londra, ecco, in questo caso gode di alcuni benefici di welfare che hanno anche i cittadini britannici. Downing Street starebbe pensando di tagliare per esempio questi tax credits, che sono di fatto un'integrazione al reddito, agli immigrati dai paesi dell'Unione Europea, e sarebbe in un certo senso uno dei modi che sta cercando di trovare il Premier Cameron per far vedere che anche lui ha un atteggiamento critico verso l'Unione Europea. Sapete che verso l'appartenenza del Regno Unito all'Unione Europea è stata lanciata una vera e propria crociata dai parlamentari dell'UKIP, quella che addirittura viene chiamata dal Times un'eurofobia, nemmeno euroscetticismo, ma proprio eurofobia. Cameron non vuole uscire dall'Unione Europea, però vuole rinegoziare una serie di cose, naturalmente anche in vista delle prossime elezioni politiche. Il Wall Street Journal invece si concentra su una questione che riguarda la Grecia e dice che i leader europei stanno esaminando la possibilità di consentire alla Grecia un'uscita anticipata da quella rete di aiuti internazionali che sapete sono stati concessi alla Grecia quando era nel periodo di massima difficoltà, e che però adesso naturalmente potrebbero, visto che alcuni dati economici dell'economia greca sono anche positivi, quindi potrebbe finire prima del previsto questo regime di tutela che ha la Grecia. Quest'ipotesi consentirebbe al governo di coalizione guidato da Antonis Samaras, spiega Wall Street Journal, di rivendicare questa fine del supporto esterno e del conseguente monitoraggio prima delle elezioni previste a marzo. Infatti a marzo ci saranno le elezioni politiche, vedete, come sempre purtroppo, forse per fortuna, non lo so, però queste scadenze impongono delle scelte viste solo in ottica di rielezione. Abbiamo visto insomma cosa è successo in America. Obama, subito dopo questa sconfitta, perché di forte sconfitta si è trattata per il suo partito e quindi anche per lui alle elezioni di midterm, ha come fatto questo discorso di apertura verso i repubblicani, e il sottotesto era un po': ho ancora 2 anni, non potrò comunque essere rieletto, non potrò neanche ricandidarmi perché i miei 2 mandati sono finiti, a questo punto mi gioco qualsiasi cosa. Quindi un sollievo, un po', se vogliamo, non avere l'ansia della rielezione imminente e poter veramente fare anche cose impopolari, o magari non necessariamente impopolari, però senza guardare appunto ai sondaggi, ecco, che decidono che spesso orientano l'operato dei politici dei governi in particolare. Passiamo a un altro argomento. In questo caso mi è venuto in aiuto il sito che sapete a me piace molto, che è presseurope.eu, che prende in esame, grazie a traduttori che lavorano, anche quotidiani o siti che sono scritti in lingue che io sicuramente non potrei avvicinare. È il caso per esempio di questo articolo su Eulex, che è la missione dell'Unione Europea per creare lo Stato di diritto in Kosovo. È appunto un articolo uscito su un quotidiano, su un giornale kosovaro che si chiama COA, e si parla di Eulex, che è stata veramente scossa da uno scandalo di corruzione. E il quotidiano di Pristina, COA Editore, titola su questi forti sospetti. Infatti il procuratore capo della missione, Jaroslava Novotna, e l'ex magistrato Francesco Florit sono sospettati di aver ricevuto delle bustarelle per insabbiare delle inchieste criminali riguardanti noti gangster kosovari. Cito, è l'ultima segnalazione che ho il tempo di farvi, una rivista britannica che si chiama The Eye, che titola Auf Wiedersehen Gran Bretagna, cioè arrivederci Gran Bretagna, e in questo caso è tutto incentrato sulle tensioni tra la Germania e l'Unione Europea, e quindi si spiega come la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che rinuncerà ai tentativi di tenere il Regno Unito nell'Unione Europea se non sarà Londra stessa a dimostrare che vuole restare nell'Unione Europea e smetterà di limitare la libera circolazione dei lavoratori provenienti da altri paesi europei. Abbiamo visto che invece Cameron forse non ha questo appello di Angela Merkel, è un po' caduto nel vuoto. Era l'ultima segnalazione, come vi dicevo, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.